Il punto di Stefano Folli. Tutti coloro che stanno osservando da lontano, dall'Europa o da altri continenti, quello che sta accadendo in Italia con l'elezione del Capo dello Stato, si saranno resi conto di due cose. La prima è che tanta tensione dimostra che stiamo scegliendo non un notabile o una figura simbolica, bensì il vero leader della nazione. Qualcuno che in base alla Costituzione non è il capo politico istituzionale dell'esecutivo, ma di fatto sì. E quindi, secondo la deduzione, si capisce che il meccanismo è inadeguato nei suoi bizantinismi a un'elezione di tale importanza. Se c'è uno spot efficace per dimostrare l'importanza della riforma costituzionale, di una riforma che dia strumenti moderni al governo complessivo del Paese, quello che avviene a Roma in questi giorni è il migliore dei messaggi. Poi in concreto si vedrà. Grillo ha preso l'iniziativa e tuttavia il silenzio degli altri non è una resa, perché hanno ancora la possibilità di eleggere un nome di equilibrio nei primi tre turni. Ma in ogni caso il nostro sistema ha bisogno di seri correttivi.